Efe kamadungu ntina bono kondi mate wana nsoni okosi okokwela Madongo, tina bono kondi mate, wana nsoni, okosi oko kwela, oke kokwela diabolo, kombo ne molokie, efe kamadungu katalogo ya mongwe, yo. Tina lingwa mayo kansango, sango ya mpamba, sango ya loko mo kwela, mwasi ya kilo, oko salambongo pamba tepwa ya kokwela, yo. Bongo nai, kokwela diambolwe Ali oli ole die Ali ole die Ali ole die, ole die, ole die Ali ole die, ali ole die Ali ole die, ole die, ole die Wana nsoni, okosi okokwela Oke kokwela diabolo, kombo nde molokie Efe kamadungu katalogo ya mongwe, yo Soki baningo bayo kansango, sango ya pamba Sango ya lukumo, kwela mwasi ya kilo Oko sala mbongo pamba tepwa ya kokwela Mbongo na yo ke kokwela Molokie, oko salambongo papa tepo ya kokwela Bongo na yo ke kokwela kaburi Ali ole ole le, ali ole ole le Ali ole liye, ole liye, ole liye Ali ole liye, ali ole liyo Ali ole liye, ole liye, ole liye Ni mate buona soni pocosi o coquela o che compra diavolo come ne morocchie e peca madungo patala che amo qui io e peca madungo tina boni o coni mate buona soni pocosi o coquela e